pietà. Mi chiudei in una stanza, mi fa sentire solo. Una città senza pietà, la mia città, non la conosco mai fino in fondo. Troppi portoni, troppi cassetti, io non ti trovo mai. Tu dimmi dove sei, adesso dove si va, cosa si fa, dove si va. Siamo sempre dentro a qualcosa, una bucheva o dentro il tram, senza mai vedere il cielo e respirando smog. Ma guarda là che cazzo fa, ma pensa a te, ma come guida quel deficiente. Poi guarda qua che ora è già, ma chi ti ha dato la patente che ti scoppiasse un dente. Cominciano i rumori, promette tante cose, ma dimmi dove sarà, prima era qua. C'è un nero che chiede aiuto, dove sarà questa città? La sparita senza pietà, c'ho troppi muri la mia città, ta, ta. Ma guarda che civiltà, la mia città, con mille sbarri alle finestre, guardie giurate, porte blindate. E un miliardo di antifurti che stanno sempre a suonare. Perché c'è chi ha troppo di meno e chi non si accontenta. E c'è chi si deve bucare in un angolo di dolore. E c'è che c'è bisogno di belle case, però lei no, non gliela do. Mi dispiace signora mia, è tutto uso foresteria, ia, ia, ia. Ma la città senza pietà, una città ti dice che non è vero.